Componimento 37° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Sie debile il filo a cui s'attene la gravosa mia vita, che s'altri non l'aita, ella fia tosto di suo corso arriva. Però che dopo l'empia di partita, che dal dolce mio bene feci, solo una spene è stato infine a qui cagion ch'io viva. Dicendo, perché priva sia dell'amata vista, mantieni anima trista. Che sai s'a miglior tempo anco ritorni, e da più lieti giorni, o se il perduto ben mai si racquista? Questa speranza mi sostenne un tempo. Or vien mancando, e troppo in lei m'attempo. Il tempo passa, e l'ore son sì pronte a fornire il viaggio, ch'assai spazio non aggio, pur a pensar com'io corro a la morte. Appena spunta in oriente un raggio di sol, ch'a l'altro monte dell'adverso orizzonte, giunto il vedrai per vie lunghe e distorte. Le vite son sì corte, sì gravi corpi e frali degli uomini mortali, che quando io mi ritrovo dal bel viso, cotanto esser diviso, col desio non possendo mover l'ali, poco m'avanza del conforto usato, né so quant'io mi viva in questo stato. Ogni loco m'attrista ov'io non veggio quei begli occhi soavi che portaron le chiavi de miei dolci pensier mentre a Dio piacque. E perché il duro esilio più m'aggravi, s'io dormo o vado o seggio, altro giamai non cheggio. E ciò ch'i vidi dopo lor mi spiacque. Quante montagne d'acque, quanto mar, quanti fiumi m'ascondon que duo lumi che quasi un bel sereno a mezzo l die fer le tenebre mie, acciò che l rimembrar più mi consumi, e quanto era mia vita allor gioiosa, m'insegni la presente aspra e noiosa. Lasso, se ragionando si rinfresca quell'ardente desio che nacque il giorno ch'io lassai di me la miglior parte adietro, e s'amor se ne va per lungo oblio, chi mi conduce all'esca onde il mio dolor cresca? E perché pria tacendo non m'impetro? Certo cristallo o vetro non mostrò mai di fore nascosto altro colore, che l'alma sconsolata assai non mostri più chiari i pensier nostri, e la fera dolcezza che nel core, per gli occhi che di sempre pianger vaghi, cercan dì e notte pur chi glien appaghi. Novo piacer che negli umani ingegni spesse volte si trova, d'amar qual cosa nova più folta schiera di sospiri accoglia. Ed io son un di quei che l pianger giova, e par ben ch'io m'ingegni che di lagrime pregni sien gli occhi miei sì come il cor di doglia. E perché a ciò m'invoglia ragionar de begli occhi, né cosa è che mi tocchi o sentirmi si faccia così addentro, corro spesso e rientro colà donde più largo il duol trabocchi, e sien col cor punite ambe le luci ch'a la strada d'amor mi furon duci. Le trecce d'or che devrien fare il sole d'invidia molta ir pieno, e l bel guardo sereno ove i raggi d'amor sì caldi sono che mi fanno anzi tempo venir meno, e l'accorte parole rade nel mondo o sole, che mi fer già di sé cortese dono, mi son tolte, e perdono più lieve ogni altra offesa, che l'essermi contesa quella benigna angelica salute, che il mio cor a vertute d'estar solea con una voglia accesa, tal ch'io non penso udir cosa giamai che mi conforte ad altro ch'a trar guai. E per pianger ancor con più diletto le man bianche sottili e le braccia gentili e gli atti suoi soavemente alteri e i dolci sdegni alteramente humili e l bel giovenil petto, torre d'alto intelletto, mi celan questi luoghi alpestri e feri. E non so s'io mi speri vederla anzi ch'io mora, però ch'ad ora ad ora s'erge la speme e poi non sa star ferma, ma ricadendo afferma di mai non veder lei che l cielo onora. Ov alberga onestate e cortesia, e dov'io prego che l mio albergo sia. Canzon, s'al dolce loco la donna nostra vedi, credo ben che tu credi che la ti porgerà la bella mano, ond'io son sí lontano. Non la toccar, ma reverente ai piedi, le di ch'io sarò là tosto ch'io possa, o spirto ignudo, od uom di carne ed ossa. Fine del componimento.